guardo tu, non mi rispondi più, è inutile. Lo sento è tardi già, nessuno più ti fermerà. Vuoi la tua libertà?